Questa volta giuro ne ho abbastanza. Mollo tutto e ti dico addio. Adesso che ho finito la pazienza, adesso su di me comando io. Lo so che poi verranno giorni duri e che avrò meno soldi di così, che pagheremo tutti i nostri errori, che stare soli è tutto un altro film. Difficile tornare sconosciuti in questa piccolissima città, parlare attraverso gli avvocati, perfino della nostra intimità. E visto che finisce così male e che il rispetto tu non sai cos'è, io tutto quello che ti posso dire in fondo a questa nostra storia è: accidenti a te che mi fai soffrire e ti illudi che lasciarsi fare in giovanile. Accidenti a te che mi fai del male con la cattiveria già delle persone sole. Ripenso al giorno che ci siamo innamorati, troppo presto scongelati in mezz'ora di felicità. E ora stai con me per comodità. Accidenti a te. Ti auguro di avere un bel rimpianto, di quelli che ti spaccano a metà, di piangere due lacrime ogni tanto, sicuramente a me succederà. Lo so, farò di tutto per scordarti, sai quanti ne trovo come te, ma consolarsi con gli amori svelti per una donna facile non è. Accidenti a te. Te lo dico piano, mentre vorrei urlare che ti odio e che ti amo. Accidenti a me, che mi porto ancora la paura un po' infantile di dormire sola. Purtroppo anche noi due ci siamo abituati, non facciamo più peccati e moriamo di tranquillità. E ora io e te, dimmi che si fa. Accidenti a me, accidenti a te.